Radio 24. Libera la voglia di fare. Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella. Buona domenica, bentornati a Nessuna è perfetta, il programma che ha la massima ambizione di farvi compagnia la domenica mattina, escogitando trucchi, scovando cose da raccontarvi per rendere la vita più leggera, soprattutto a noi donne, che ce la rendiamo spesso più pesante con l'assurda aspirazione a fare tutto e tutto insieme, no? La trappola del multitasking. Ebbene, questa domenica la dedichiamo proprio all'idea che persino ad Harvard si sono concentrati su quello che rende più felici e hanno scoperto che rende più felici comprare il tempo. E questa è la conclusione a cui è arrivato un gruppo di economisti americani e canadesi della Harvard University, per cui è vero che i soldi comprano la felicità, ma soprattutto rendono contenti perché consentono di acquistare il tempo, ovvero di far fare ad altri cose che ci piacciono di meno per dare il tempo di farne di piacevoli. Sembra l'uovo di Colombo, no? Sembra la scoperta che chiunque avrebbe potuto fare. Com'è andata questa ricerca? Hanno messo insieme un vasto campione di 8.000 persone, 8.000, che rappresentano la popolazione degli Stati Uniti, Canada, Danimarca e Olanda, e un gruppo di 800 milionari olandesi che si sono resi disponibili per la ricerca. Tutti hanno compilato un questionario dove si chiedeva di spiegare come spendessero in genere il denaro e di dare una valutazione del proprio grado di soddisfazione nella vita. Hanno rielaborato questi ricercatori di Harvard tutti i dati e alla fine è emerso che tutti quanti, la maggioranza dei sondati, ritenevano che la possibilità di delegare ad altre persone le cose che rendevano loro più pesante la vita era il massimo della felicità. Vale un po' per tutti. Io per esempio non guido, ad altri piace moltissimo guidare, io non guido e spendo un sacco di soldi in taxi. L'esempio non è forse dei più calzanti, ci sono cose che sono sicuramente sgradite a tutti, mentre guidare piace per esempio a molti, però la ricerca di Harvard questo ha accertato. La pensate così anche voi? Volete dirci cos'è per voi la cosa più sgradita per la quale siete disposti a pagare anche una cifra se la fa un altro? Allora scrivete a nessunaeperfetta@radio24.it e commentate con noi sulle nostre pagine Facebook e su Twitter. Intanto però è arrivato il momento di sentire che ne pensa il nostro agente provocatore. Bentornato a Nessuna è perfetta Giampaolo Pansa, giornalista, scrittore, famosissimo autore di saggi che vanno a ruba. L'ultimo si intitola Il mio viaggio tra i vinti, neri, bianchi e rossi ed è pubblicato da Rizzoli. Allora, buona domenica Giampaolo Pansa. Buona domenica anche a lei, meravigliosa Latella. Pansa, naturalmente noi partiamo dal libro che è destinato a bissare i successi precedenti, perché ovviamente la vita di uno che scrive è una vita di grande libertà. In questa domenica noi parliamo del tempo, di comprare il tempo, della possibilità di fare cose che piacciono. E uno scrittore fa quello che gli pare, decide lui se scrivere al mattino, se scrivere al pomeriggio. Questo libro è stato scritto quando? Cioè, qual è la disciplina del tempo di Giampaolo Pansa? Allora, la disciplina del tempo di Giampaolo Pansa è dettata prima di tutto dalla sua età. Io non sono una signora, nemmeno, ma men che mai una signorina, sono un vecchio signore, ho sempre lavorato con intensità, non soltanto per scrivere gli articoli per i tanti quotidiani o settimanali per cui, in cui mi sono arruolato, ma anche per scrivere i libri. Ma adesso scrivo con più decisione e con più costanza perché so di non avere più troppo tempo. Ammesso anche che il Padre Eterno decida questo panza è un rompiscatole. Teniamolo lontano, tanto dal paradiso che dall'inferno che dal purgatorio. Però, insomma, quella pazienza di dominare Dio non è senza limiti. E quindi tu invece di rallentare hai un ritmo intenso. Penso che non soltanto io, ma tutti i signori senior, come direbbero quelli che parlano inglese, e dovrebbero rendersi conto che non è che gli che hanno davanti un ventennio di attività, hanno davanti, se va bene, qualche anno, pochi, perché poi bisogna mettere. Guarda che Berlusconi dice che si può vivere fino a 150 anni, fatti sì, due ma lui conti. Lui non scrive, lui ha dei negri, come si diceva una volta, che gli scrivono i discorsi, o comunque ha dei giornalisti capaci che gli improvvisano articoli, mentre invece io non c'ho nessuno, o meglio, ho una spalla fantastica, è una coautrice che è Adele Grisendi, che è la donna della mia vita, che in questo momento in un'altra stanza scommetto che sta sentendo le risposte che ti dà, dopodiché sarà molto severa nel giudicare quello che ti ho detto. È proprio da un viaggio con Adele che è nato l'ultimo libro. E come no. Allora, devo cercare di fare buon uso del mio tempo. E siccome scrivere mi diverte, come tutti i signori âgé, dormo poco, mi sveglio la mattina presto, che faccio? Accendo il computer e scrivo. È il mio divertimento, è il mio hobby. Gli storici che sostengono che i vinti della guerra civile italiana sono stati soltanto i fascisti della Repubblica Sociale non ti vedono d'accordo. Questo no, è un libro in cui no, smentisci questa tesi. Non mi vedono d'accordo perché sono o degli ignoranti o per, come dire, per comodità ideologica o polemica vogliono sostenere questo. In realtà tutte le guerre civili, io ne ho visto quella tra il 43 e il 45 quando ero ragazzino, ho visto i partigiani portati al poligono di tiro della mia città per essere fucilati, ho visto i fascisti condannati dai tribunali straordinari alla pena di morte, portati sulla rive del Po e uccisi uno dopo l'altro con colpi alla nuca. Poi ho studiato, scritto, la mia tesi di laurea che è stata pubblicata sempre dallo stesso editore ma in due riprese. Mi sono laureato che avevo 24 anni e ho fatto una tesi di 600 pagine. Poi quindi si capiva che avevi un destino di scrittore, per certo, te scrivere 600 pagine niente. No, per me scriversi, no, per, non è stato niente, no, non è vero che è stato, perché sono andato a intervistare una grande quantità di ex partigiani e anche qualche ex fascista, ho letto archivi, documenti di archivi privati e di archivi pubblici e sono arrivato a questa banalissima conclusione, che la guerra civile in tutti i paesi, ma mi riferisco a quella italiana, è come uno tsunami, non guarda chi ammazza tutti. E infatti le storie di questo libro sono sorprendenti e infatti anche se è uscito soltanto il 7 settembre si è piazzato subito ai livelli alti della classifica e vende ed è partito fortissimo, perché cosa dice? Ma dice che le vittime della guerra civile non sono stati soltanto i fascisti, bisogna metterci anche i soldati militari tedeschi, ma sono stati intanto comunisti che non volevano sottostare al volere di Stalin, cattolici, preti, ragazzi partigiani bianchi, persone che in qualche modo potevano infastidire quella fazione maggioritaria del vecchio Partito Comunista Italiano che pensava che la resistenza fosse solo il primo atto di una, certo, di una conquista del potere molto più lunga e molto più vasta. Per cui mi sono limitato avevo tante storie, ne ho molte, perché dopo il sangue dei vinti abbiamo ricevuto, Adele e io, 2000 lettere, no scusa, di più, quasi 20.000 lettere, e che mi hanno, che quasi tutte scritte da donne, che mi dicevano: caro Panza, ho letto il sangue dei vinti, ma non ho trovato la storia di mio padre, di mio nonno. Chissà quante ascoltatrici di Nessuno è Perfetta qui a Radio 24 adesso ti scriveranno. Ma non lo so se mi scriveranno o meno. Potrai fare un altro libro. Ascolta, Giampaolo, nel nostro fil rouge, che è sempre dedicato alle donne che lavorano, come sai, il tempo in questa nostra puntata è visto anche come la possibilità di comprare il tempo per fare cose più piacevoli e far fare ad altri cose meno piacevoli. Una ricerca condotta ad Harvard ha accertato che, per esempio, per un gruppo di milionari che è stato sondato dai ricercatori di Harvard, la vera ricchezza è appunto poter fare quello che ti piace e far fare ad altri quello che non ti piace. Vabbè, ma qui mica siamo tutti miliardari. Se io vedo, se ricordo di mia madre, che aveva tra l'altro anche la responsabilità di un negozio di mode, quelle che Irene Brin, la ricorderai, certo, come firma, grande giornalista, grande di moda. Giornalista di moda e anche di costume, aveva chiamato una modisteria, e poi aveva la famiglia, aveva mio padre, aveva mia sorella, avevo io, ma lo vedo anche con Adele è continuamente, non ha un minuto di tempo libero. Perché tanto per cominciare deve occuparsi del sottoscritto, cioè che già deve essere impegnativo, che è molto impegnativo. Io sono un tipo impegnativo, ma non per la mia età. Certo che quando avevo 30 anni o 40 ero più, mi arrangiavo da solo, diciamo così. Ma soprattutto poi scrive per suo conto, scrive libri. Cito un suo libro bellissimo pubblicato da Sperling e Kupfer, L'amore mancato, è della storia di Adele e di sua madre, l'amore mancato, è stata la mamma di Adele, per un complesso di circostanze, che avrà voglia di leggersi questo quasi romanzo meraviglioso, e poi è costretta a occuparsi di una... Oltretutto, ma io tu sono... trovi che sia poco etico comprare del tempo, cioè guadagnare un po' più di soldi per far fare... Faccio un esempio, a me non piace stirare, no? Preferisco pagare qualcuno che lo faccia per me. Vabbè, ma questo è normale, insomma, le famose colf, o per scendere all'età più anziane, le famose badanti, che cosa sono se non persone che vengono pagate bene, spero? È giusto. Comprare un aiuto e ti aiuta, ti concede più di avere più tempo, non è... Mi stupisce la sua domanda, non è affatto non etico. In Germania, per esempio, viene guardato con sospetto chi non si fa da solo i lavori di casa, perché dice: ma sei in grado di farti... Un'idea dei tedeschi sbagliati, io ne conosco parecchi. Grazie Giampaolo Panza, buona Grazie domenica a te e ad Adele. E alle donne italiane e mondiali. Ricordatevi di noi vecchietti. A presto. Ciao, buona domenica. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Nessuna è perfetta. Eccoci, questo è il momento, lo sapete, della nostra Sunday Girl. Benvenuta, anzi bentornata, Micaela Ramazzotti, che dal 27 settembre è al cinema con un film che ha fatto molto discutere e molto piaciuto alla Mostra del Cinema di Venezia. Un film complesso, con un tema difficile, si intitola Una famiglia. Benvenuta Micaela. È una famiglia particolare quella che racconta il film diretto da Sebastiano Riso. Sì, sì, buongiorno a tutti innanzitutto. Sì, è una famiglia... Il titolo infatti è una famiglia diversa da quelle che noi ci immaginiamo, perché Sebastiano Riso, il mio regista, mette in scena un legame patologico, morboso, una storia di sopraffazione tra un uomo e una donna, però dove questa coppia è anche criminale in pratica, perché vendono dei figli in nero, anche se lei in realtà è succube di quest'uomo, anche se lei in realtà non ha scelto di fare questa cosa, ma lo ha accettato segretamente, e quindi anche lei diventa complice di una criminalità, ecco. In queste settimane, purtroppo, e purtroppo per tutta l'estate, abbiamo avuto continui episodi di violenza fisica su donne che vengono violentate, aggredite. La violenza di cui si parla nel film La famiglia è una violenza psicologica, ma non per questo meno terribile, anzi, è una violenza che tiene in uno stato di sudditanza la protagonista. Ed è in qualche modo una violenza che trae un vantaggio economico dall'essere donna, perché invece di farla prostituire, il compagno di questa donna la costringe a fare figli che vengono venduti per denaro. Una cosa orrenda. Sì, perché lei purtroppo è una persona talmente fragile, talmente candida, talmente mite, puerile, è così succube, così innocente da diventare complice e sfornare a ripetizione questi figli da vendere in cambio di alcune decine di migliaia di euro. Diciamo che lei diventerà un'altra donna quando avrà una presa di coscienza, una rinascita. Noi all'inizio infatti del film la vediamo che inizia ad avere, come a meditare qualcosa di diverso, come un progetto in cui lei dentro di sé dice: questa volta però io non ce la posso fare, questa volta voglio riprendermi la mia vita e riprendermi quel figlio che non ho mai avuto. Quindi è una storia molto molto difficile che mette in scena le adozioni, che mette in scena le vendite. È una storia anche di disperazione, ovviamente, ma di violenza psicologica e fisica, ma di questi episodi ne vediamo tanti e purtroppo bisogna anche parlarne. Il cinema in questo offre questa opportunità. Micaela, nella tua esperienza di attrice i ruoli difficili sono stati frequenti. Penso all'ultimo film diretto da tuo marito Paolo Virzì, La pazza gioia, ma penso anche alla tenerezza di Gianni Amelio, recitato pochi mesi fa con lui. In questo momento la gente che va al cinema, gli spettatori, non hanno anche voglia di leggerezza? Guarda, io penso che dipende dallo stato d'animo delle persone in cui si trovano, dipende se ha voglia di approfondire e di vedere, sai, è facile aprire la porta e vedere le cose belle, certo poi quando scoperchiamo le cose brutte è più difficile e uno si deve anche mettere insomma nella testa del regista di quel film e lasciarsi assorbire da quella storia più difficile, più raffinata, più complicata. E penso che c'è sempre bisogno di tutte e due le cose. Comunque io il prossimo film sarà una commedia molto brillante, quindi cercherò di fare una donna mi ha incontrato in strada e mi ha detto: Micaela, hai fatto piangere le donne di tutta Italia con La pazza gioia, e io le ho risposto: adesso nei prossimi film vi farò ridere, ho un debito con tutte le donne. Allora lo aspettiamo. Chi è il regista? Allora, guarda, adesso farò questa commedia con Andò, che Roberto Andò, che è una commedia gialla, cioè un thriller, ma il tono è da commedia, humor, e poi ci sarà nel cast Renato Carpentieri, Laura Morante, Alessandro Gasman, un cast molto molto bello, proprio stellare, e poi più in là farò una commedia tutta da ridere con De Luigi. Bene, aspettiamo tutti e due. Micaela, nessuna è perfetta, ha un punto fermo, un mantra sul quale torniamo di continuo a costo di sentirci dire che siamo noiosi. Il nostro obiettivo è dimostrare che le donne si sono fatte fregare dal multitasking. Ci hanno spiegato che potevamo fare tutto, che dovevamo farlo bene, essere madri perfette, lavorare tanto, avere case impeccabili. Tutte balle, secondo me. È stata la peggiore fregatura inventata dagli uomini per farci sentire inadeguate. E la domanda la pongo anche a te. Tu fai tutto tutto quello che si pretende dalla perfetta multitasking e lo fai in modo perfetto? Ma perfetto è impossibile perché io cerco di organizzarmi, ti dico una cosa che ti farà ridere, ho due figli e al mattino ci svegliamo presto perché li accompagno a scuola, poi inizia la mia giornata e mi piace accompagnarli, è il momento più bello della giornata. Per rubare un po' di tempo la mattina per sonnecchiare un pochino di più, io la sera preparo le tovagliette tipo bed and breakfast con le tazze rigirate, così la mattina magari trovo già la colazione che l'ho preparata la sera. Cioè nel senso che fatichiamo molto, fatichiamo nonostante poi noi siamo donne fortunate, cioè abbiamo anche degli aiuti, però fatichiamo tanto perché lavoriamo, perché comunque la responsabilità dei figli è sempre prima nostra, sul lavoro dobbiamo combattere e dimostrare che siamo più brave degli uomini, perché comunque siamo in una società sempre maschilista, è molto difficile per noi, molto difficile, faticosissimo. Togli una curiosità, sei la mamma di due bimbi piccoli, ma sei una mamma che dice dei no e dunque accetta di fare più fatica perché un no è faticoso? Oppure ogni tanto molli, dici sono stanca, non ce la faccio e fai fare ai bambini quello che vogliono? È capitato che ero molto stanca e ho lasciato andare, però poi ho capito che purtroppo i no servono e quindi è un impegno continuo. È un impegno continuo, ma è un impegno delle donne. Ma forse, guarda, ti dico che noi siamo in grado perché siamo più forti. Comunque c'è una risorsa dentro che è impressionante, secondo me, una risorsa che la vedo in mia madre, la vedevo in mia nonna, cioè la vedo in mia figlia, è veramente una forza che abbiamo noi perché siamo così, è una cosa innata. E l'ultimo no che hai detto a uno dei tuoi bambini? Questa mattina in pratica voleva uscire a maniche corte, faceva un freddo impressionante, ho detto ma no, mettiamo la felpetta, non la voglio la felpetta, no, tu metti la felpetta, poi si raffredda. grazie a Micaela Ramazzotti che continueremo a vedere al cinema nei prossimi mesi e torna a Nessuna Perfetta, ti aspettiamo. È sempre un grande piacere, ciao. 4 ottobre 2017, Radio 24, compie 18 anni. A 18 anni avevo voglia di rock, voglia di raccontare storie e di combattere le ingiustizie, esattamente come adesso. A 18 anni volevo migrare e viaggiare, ora mi occupo di migranti e sono spesso sulla A9. A 18 anni pensavo che tutto si poteva fare e lo penso ancora. Radio 24, da 18 anni, racchiude tutto questo. Una generazione di stimoli per la mente. Grazie a voi che ci avete sostenuto, amato, odiato e soprattutto ascoltato. Raccontateci perché vi piace Radio 24. Scrivetelo a buoncompleanno@radio24.it e 18 di voi potranno assistere dal vivo alle dirette della radio. Radio 24, il sole 24 ore. Nata con carattere. Nessuna è perfetta. Eccoci, continuiamo a parlare dell'idea di comprare il tempo. Dà la felicità? Beh, forse sì. Se io, che ho confessato a Giampaolo Panza, non amo stirare e riesco a delegare questa attività che non mi piace a qualcuno che magari invece si rilassa stirando e compro del tempo e compro un pezzettino di felicità. Giampaolo Panza mi ha assolto e ha detto che non c'è niente di male in tutto ciò, ma soprattutto ci sono dei momenti in cui è proprio assolutamente necessario delegare ad altri delle cose che piacciono o non piacciono perché poi se ne devono fare di prioritarie. E noi continuiamo a parlare di comprare il tempo per ritagliarci un piccolo spicchio di felicità e lo facciamo con due esperte salvatempo. Allora, eccoci qui. Francesca Camerota, fondatrice di Mamma Colt, e Monica Archibugi, fondatrice delle Cicogne. Tutte e due date una mano alle mamme perché il tempo non è mai infinito per chi ha bambini piccoli e ogni tanto fa bene, è sano e assolutamente indispensabile ritagliarsi un pezzetto di tempo per se stessi. Cominciamo da Francesca Camerota. Che cosa fa Mamma Cult e in che modo aiutate le mamme a ritagliarsi dei pezzetti di tempo per loro stesse? Ciao a tutti, ciao Maria. Allora, Mamma Cult è una piattaforma che aggrega attività da fare con i propri figli nel tempo libero. Quindi banalmente da una visita guidata studiata appositamente per bambini all'organizzazione di una festa di compleanno, un laboratorio, un'escursione. In che modo aiuta le famiglie, le mamme in particolar modo, a trovare l'attività giusta per i loro figli in base alla loro età, al luogo in cui si vuole andare, e quindi a ridurre i tempi nella ricerca, nel contatto del fornitore e nella prenotazione. Per cui una mamma, invece di tornare stanca dal lavoro e dice voglio far fare una cosa bella la domenica a mio figlio e passa lì un'ora su online cercando le cose, fa una telefonata a voi o vi contatta online e trovate voi la soluzione. Sì, esatto, abbiamo un'ampia scelta di attività e si può attraverso un sistema e-commerce prenotare direttamente le attività e noi mettiamo in contatto con il fornitore che poi darà tutti i dettagli, quindi non si perde tempo nella ricerca, nel contatto e nell'acquisto. E invece le cicogne, Monica Archibugi, in che modo riesce a dare una mano alle mamme facendo risparmiare loro tempo, dando loro la possibilità di usare un po' del tempo risparmiato per qualcosa che le gratifichi? Sicuramente le aiutiamo nella ricerca, come hai detto tu prima Maria, si perde tanto tempo online o si perde tanto tempo al telefono spesso per chiedere consiglio rispetto a una babysitter. Nel nostro caso invece c'è un sito internet disponibile per i genitori che è responsive ovviamente dal cellulare, quindi funziona come un'app comodamente dal telefono, in cui il genitore cerca la babysitter indicando le proprie necessità e istantaneamente viene mandata una notifica a tutte le babysitter della zona, quindi del proprio quartiere, e nell'arco di 24 ore, 48 al massimo, riceve risposta dalle migliori 4 babysitter, secondo un punteggio che abbiamo all'interno del sito, e l'appuntamento è già confermato per conoscerle. Quindi chi arriva da noi, dopo 24 ore, al massimo 48, ha già i profili delle babysitter e gli appuntamenti per conoscerle. Ecco, affidare i propri figli a una babysitter è un gesto che viene fatto con responsabilità. Voi vi assumete la responsabilità di mandare una persona che si prende cura di bambini. Come le selezionate? Allora, come Airbnb, come tanti marketplace al mondo, è un portale di incontro di domande e offerta, quindi tutte le babysitter si possono registrare, come allo stesso tempo tutti i genitori. Il controllo viene fatto dagli utenti stessi, quindi le babysitter che ricevono i feedback dai genitori e saranno pubblici sul loro profilo e quindi i prossimi genitori che vedranno il profilo di una babysitter sapranno l'opinione degli altri genitori e non di noi, della nostra società, diciamo, che abbiamo il compito di creare un portale e un'applicazione che funzionino nel modo migliore possibile, dando al genitore la possibilità di vedere tutte le informazioni necessarie all'interno del profilo della babysitter per poterla poi scegliere. Ecco, Francesca, qual è tra le tante cose che voi offrite quella che le mamme richiedono di più? Allora, sicuramente organizzare un compleanno anche in modo particolare o diverso, o anche e soprattutto organizzare una visita guidata proprio a dimensione dei bambini, perché non è facile andare a vedere una mostra o anche un museo se non si ha una guida specializzata del materiale ad hoc per coinvolgere i bambini. Noi non abbiamo detto dove le organizzate, in tutte le città o in una in particolare? Ma in realtà siamo in tutta Italia, copriamo molte destinazioni, in particolare le grandi città. Per esempio a Roma dove li portate i bambini? Qual è una visita molto gettonata quando si tratta di vedere un pezzetto di questa capitale? A Roma prevale il Colosseo in tutti i sensi, però ci sono tantissimi luoghi, dai Musei Capitolini, allo Stadio di Domiziano, c'è una grandissima offerta, e poi soprattutto anche le mostre temporanee. Ma e i bambini come reagiscono quando vengono portati dalle mamme? Si annoiano? No, no, benissimo. Io ho due bambine, quindi loro sono state le prime. Le cavie? No, sono molto coinvolte. Partecipano con entusiasmo, comunque si divertono, riescono a vivere un luogo culturale con grande piacere. Infatti la nostra mission è proprio far vivere in maniera positiva le esperienze anche ai bambini, e soprattutto le esperienze culturali, perché così potranno ricordare un'esperienza positiva e quindi andare anche in futuro al museo, perché hanno vissuto un'esperienza positiva con noi. A proposito di babysitter, invece, sono quasi sempre solo le mamme a richiedere il vostro servizio delle cicogne, o cominciano a farsi vivi anche i papà? No, no, si fanno vivi anche i papà, oserei dire una percentuale intorno al 30%, quindi neanche troppo piccola. E questo vale allo stesso tempo, allo stesso modo anche per i babysitter, quindi ci sono sia babysitter femmine, donne, che maschi, uomini, però sono molto richiesti per i maschietti, perché si presume, esatto, che ci sia una maggiore sintonia? Sì, esatto, perché ovviamente vale un po' come il fratello maggiore, quindi lo porta al parco, ci gioca a pallone, e, diciamo, comunicano nello stesso modo e giocano allo stesso modo, quindi sono molto apprezzati quando si hanno bambini maschi circa da 6 anni in su. Allora, vi ricordo a chi ci ascolta che ci sono le cicogne e c'è Mamma Cult, se volete ritagliarvi un po' di, comprare un po' di tempo per dedicare poi un po' di tempo in più a voi, troverete su, lo faccio dire a voi, online, Francesca Camerota, qual è il vostro sito, dove vi trovano? Il nostro sito è www.mammacult, scritto mammacult.com. E Monica Archibugi, qual è il sito? www.lecicogne.net. Bene, io ringrazio Francesca e Monica e vi ricordo che potete segnalare le vostre opinioni sulla vostra idea di comprare il tempo. Questo è il tema di questa puntata. L'indirizzo lo conoscete, è nessunaeperfetta@radio24.it. Grazie Francesca, grazie Monica. Buona domenica. Grazie Maria. Sono Nicoletta Carbone, diventerò la vostra salutare ossessione quotidiana, 7 giorni su 7. Dal lunedì al venerdì una rassegna puntuale delle notizie che arrivano dalla ricerca, commentata dagli esperti più autorevoli. E per chi vuole andare oltre la notizia, sul nostro sito ogni giorno approfondimenti, interviste, le risposte degli esperti, video e tutorial. Ma ci sarò anche nel weekend. Al sabato vi racconterò tutto quello che dovete fare e sapere per stare bene e per sentirvi meglio, solo quello che serve. E la domenica caccia alle bufale per riportare la verità nel piatto. La salute, il benessere e il cibo sano con Nicoletta Carbone, dal lunedì alla domenica alle 12 su Radio 24. Nessuna è perfetta. Eccoci, questo è il momento della nostra coach. Sapete che le pillole della coach sono molto attese, il nostro finale. Questa domenica le 3 pillole di Carla Ciani su come risparmiare tempo, comprare tempo per avere più tempo per noi. La prima pillola per non perdere tempo sul lavoro è per difenderci dalle trappole del multitasking. La capacità della donna di fare più cose contemporaneamente è indiscutibile, ma quando lo facciamo spesso corriamo il rischio di non chiudere il punto e anzi di aprirne altri, e il multitasking può trasformarsi in un multicaos con una conseguente perdita di tempo. Di quel tempo che diventa a quel punto necessario per rimettere tutto nella corretta priorità. Cioè, se sto scrivendo una mail e contemporaneamente chiamo una collega per un'informazione, la collega potrebbe chiedermene un'altra e ciò mi richiederà più tempo del previsto e magari giusto quel tempo in cui avevo promesso alla tata di chiamarla. Quindi, mentre parlo con la collega, dovrò mandare un messaggio alla tata per dirle che chiamerò più tardi. E la mail nel frattempo? Vabbè, la invio così, intanto poi semmai ne invierò un'altra. Multicaos dunque, no? Possiamo immaginare il tempo che ci servirà poi per sistemare in modo efficace tutte le cose e di contesti diversi che abbiamo aperto contemporaneamente. È molto interessante essere capaci di fare più cose contemporaneamente, ma se siamo in grado di misurarne poi l'efficienza nel corretto utilizzo del tempo. Dovremmo un po' apprendere dal modello maschile e allenarci a fare una cosa per volta e il più possibile compiutamente. Dovremmo cioè, come dire, essere presenti a noi stesse quando facciamo quella cosa, anche un po' imparando dai bambini, no? Che quando ad esempio sono impegnati in un gioco lo sono totalmente e finito quel gioco si passa ad altro. Perché è facile lasciarsi attrarre dalle newsletter, dai banner, dalla conversazione dei colleghi mentre stiamo facendo dell'altro. Ma sappiamo bene che se spostiamo la nostra attenzione, certamente sposteremo anche i tempi che avevamo pianificato. Questo non significa non accedere a ciò che ci interessa. Dobbiamo invece selezionare ciò che ci interessa e riporlo in quel contenitore, in quella fascia di tempo che avremmo precedentemente e appositamente riservato per questo. E quando lo faremo sarà sicuramente più piacevole e certamente più produttivo. Dovremmo inoltre anche un po' allenarci a fare per prime le attività che ci piacciono di meno. E se è possibile il mattino, quando abbiamo più energia. Il rinviare, il procrastinare implica sempre un tempo che si spreca inevitabilmente per giustificare a noi stesse o agli altri. Fare per prime le cose che ci piacciono meno vuol dire non solo farle, ma significa non rimanerne collegate, non inquinare con il senso di colpa il tempo per le cose che ci piacciono di più, dentro e fuori l'azienda intendo. La seconda pillola riguarda l'accessibilità e la disponibilità, cioè ci aiuta a comprendere che essere accessibili non significa essere disponibili e che se diamo accessibilità, ma in quel momento non possiamo dare una reale disponibilità, sarà inevitabile perdere del tempo. Sento spesso le persone dire la mia porta è sempre aperta, oppure sento delle convinzioni sui vantaggi dell'open space. Ma quando qualcuno ci interpella mentre stiamo facendo qualcos'altro, siamo solo accessibili o possiamo essere davvero disponibili con la nostra mente, con il tempo corretto e in quel momento per prendere in mano quello che ci sta arrivando? E se siamo sempre accessibili, quanto saremo in grado di garantire i tempi invece per le nostre attività? Per cui, per esempio, se ci fermano in corridoio per una richiesta al volo che non possiamo soddisfare in quel momento, dovremmo essere in grado di chiedere, anche con un po' di autorità, quando fosse possibile, al nostro interlocutore di parlarne in un momento in cui saremo davvero disponibili. Tutti conosciamo le enormi perdite di tempo che derivano dall'aver detto sì certo che me ne occupo, no? Solo per la fretta o per bloccare l'interlocutore o per dar prova di efficienza e poi ci ritroviamo a esaminare quello che ci è stato chiesto, oramai abbiamo fatto una promessa e il tempo ci manca. Sempre con la massima che il tempo è denaro, dobbiamo pensare che è un po' come se avessimo promesso un pagamento senza sapere se abbiamo i soldi in tasca per poterlo fare. E la terza pillola riguarda la nostra competenza, la nostra abilità di affidare un incarico e viceversa anche di assumerlo. Spesso diamo per scontato che la persona a cui affidiamo un incarico, oltre ad essere in grado di svolgerlo, conosca tutte le nostre motivazioni e le nostre esigenze. Quando diamo un incarico non dobbiamo dare nulla per scontato, dobbiamo dare davvero tutte le informazioni, le precisazioni, le indicazioni necessarie, dobbiamo fare tutte le domande di verifica per essere certe che quella persona o quel team abbia ben compreso e disponga di tutto ciò che serve. Così eviteremo di dover tornare sul punto o eviteremo addirittura di dover tornare ad occuparcene personalmente. E tutto questo vale ovviamente viceversa quando un incarico lo riceviamo. Poi non dobbiamo mediare sulle scadenze. Riguardo gli incarichi, in azienda si spende una montagna di tempo nella negoziazione delle scadenze. Ma se le motivazioni o la necessità di urgenza sono state davvero condivise e le informazioni sono complete e se c'è una buona analisi di tutti i fattori critici, quella scadenza è una conseguenza, come dire, naturale e non negoziabile. Così anche partecipare a una riunione è un incarico e dobbiamo arrivarci informati e dare preventivamente tutte le corrette informazioni, dotarci degli strumenti coerenti. E quando si andasse fuori tema e si aprissero punti che non erano previsti, bisogna assumersi collettivamente la responsabilità del tempo che decidiamo di investire comunque, o quella di ripianificare una riunione quando possiamo garantirne il tempo corretto. Buona domenica, Carla Ciani, la nostra coach. Grazie Maria, grazie a tutti e buona domenica. Buona domenica a voi che ci avete seguito.